Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? No? Se non sta un metro e mezzo, no. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid! Non c'è niente! Lo sbarco sulla luna è stato finito. Abbiamo fatto gli studi, si è detto, e noi siamo arrivati a questa decisione. Stavo di qua, mutanda da fascia, pezzo di merda! Pezzo di merda! Sputo, che fai? Buongiorno. Buongiorno, un cazzo. Runtime Radio. Ne fa un'altra. Amici carissimi, bentornati a Buongiorno un cazzo. Questa sigla ci è mancata tanto. Diciamo è un po' lunghetta, io mi rendo conto che è un po' lunghetta, però io l'ascolto sempre volentieri, sto qua e mi aiuta perché mi carica praticamente la puntata, la trasmissione in qualche maniera, ed è un momento insomma che condividiamo insieme, questo Buongiorno un cazzo, che però purtroppo per un periodo di tempo non c'è stato, perché ci sono state tante trasformazioni e all'interno delle trasformazioni qualcosa deve essere sacrificato per lasciare spazio alla costruzione, diciamo. Poi quando c'è modo e tempo, come in questa occasione, le cose tornano, anche perché il palinsesto di Runtime, per quanto riguarda lo streaming giornaliero, sta cambiando radicalmente rispetto a quello che c'è stato già. Ma adesso ne parliamo di questa cosa, ma prima ovviamente un'iniziativa creata, sponsorizzata e partita dalla mente e dal cuore di Leo Varghion, che ovviamente Runtime Radio sta sostenendo con tutta se stessa. Un piccolo seme può dare molto frutto se mani amorevoli se ne prendono cura, ma alle volte questo può non bastare. Ogni giorno migliaia di alberi vengono abbattuti, lasciando il nostro pianeta sempre più povero di una risorsa importante per la sua sopravvivenza. Ed è per questo che noi di Runtime Radio abbiamo deciso di sposare la nobile causa di Tridom, una realtà tutta italiana che da anni si batte per riforestare il pianeta con un sistema che fa bene a tutti. Vai sul nostro sito www.runtimeradio.it e accedi da lì alla Vargheomachia, la nostra piccola foresta su Tridom, in cui potrai comprare un albero da far piantare nel luogo che desideri. Le cooperative locali pianteranno il tuo seme nel rispetto dell'ecosistema, della fauna e aiutando così anche l'economia del luogo. Basta un piccolo gesto per fare la differenza. Fallo assieme a noi. Cerca la Vargheomachia sul sito www.runtimeradio.it. Grazie. Bene, allora andate su www.runtimeradio.it e andate sopra in alto tra i vari, insomma, nel menu. C'è anche la Vargheomachia. Vargheomachia, cliccate e all'interno troverete il modo per poter accedere. La pagina fa un po' schifo, va insomma un po' sistemata con la grafica, così come tanti altri aspetti del sito che stiamo cercando di migliorare negli ultimi tempi, però insomma poi alla fine è sempre il principio quello che conta. Andate lì e piantate il vostro albero, lo fate a nome vostro, a nome della Vargheomachia e a nome di Runtime Radio, e anche noi ovviamente stiamo contribuendo a questa cosa. È un'iniziativa spirituale, però sono quei gesti che comunque in qualche maniera fanno la differenza, perché tra dire, tra farlo e non farlo, comunque alla fine qualche cosa succede sempre. Allora ragazzi, grande settimana, voi sapete che quando c'è il 25 aprile, il 1 maggio, a noi ci nasce sempre quello spirito tipo battagliero, ma sì, dobbiamo tornare a combattere, dobbiamo tornare ad avere quello spirito proprio da fight contro il sistema, in qualche qualche maniera, no? Soprattutto questo sistema che, insomma, ragazzi, sta facendo veramente ridere. Io ho detto tante volte in OGM, tra l'altro ricordatevi che stasera ore 21 OGM, sempre su www.orantemeredio.it, con tutti gli altri compari Walter, Marco, Francesco e Puccio. Alla fine diciamo sempre che in questo momento qui particolare, chiaramente, insomma, ce ne sono assolutamente da dire di questioni. Intanto saluto tutti quelli che sono in chat. Alex, vedo anche al 9000, pure Shuren addirittura, mi fa piacere veramente. Comunque dicevo, sono successe diverse cose, a parte, vabbè, lo scudetto vinto dall'Inter che diciamo spezza un po' questa egemonia della Juventus. Ci dispiace anche per la Juventus, ma in realtà poi alla fine comunque ogni tanto bisogna anche un po' cambiare, no? Cioè, nel senso, non succede mica niente se ogni tanto anche gli altri vincono lo scudetto. Io da laziale diciamo ammicco un po', dico sì dai, alla fine c'è sto gemellaggio con gli interisti, ma anche chi se ne frega, insomma, avremmo potuto vincerlo noi lo scudetto e se poteva essere anno buono, ma siamo partiti troppo male, ma chi se ne frega anche di questo. E però giustamente lo scudetto non puoi non festeggiarlo scendendo in piazza, soltanto che scendere in piazza in tempi Covid, io vedo proprio che c'è questa reazione, no, a questa situazione che è un po' particolare. La gente da una parte si è rotta le scatole, sta dentro casa, sta segregata, e parzialmente lo capisco, dall'altra però giustamente non si rende conto che alla fine le regole sono importanti in qualche, soprattutto in Lombardia. Io mi sono reso conto che questa cosa proprio in Lombardia, loro non possono rinunciare a determinati presupposti, che sono quelli da fare l'aperitivo, de uscite, fa quella, poi dopo alla fine se si contagiano non fa niente, soprattutto perché hanno una regione così ben amministrata, insomma, da un grande genio che alla fine comunque fa sempre la differenza. Ma questo è stato il fine settimana di Fedez, chiaramente è stato il fine settimana del primo maggio con questo concertone virtuale, ancora una volta, insomma, con questo aspetto un po' strano, un po' sospeso, un po' surreale, dove alcuni ovviamente cantavano in posti specifici delle loro città o posti simbolici, e alcuni all'auditorium, ma con anche un abbozzo di pubblico, anche se poi non ho ben capito come funzionava questa questione, quindi non so bene come sia stata gestita, chi ha preso il posto di chi e perché, insomma, vabbè, tutta una serie di cose che alla fine sarebbe carino, insomma, riuscire a capire come funzionava questa questione della distribuzione del posto. Comunque Fedez si è scagliato, diciamo, contro la Lega, sostenendo tra l'altro che la Rai avrebbe voluto censurare questo suo intervento, ma al di là del litigio Fedez-Lega, sul quale potremmo entrare nel merito e sicuramente parleremo questa sera ad OGM, ma la cosa che ovviamente ha fatto scagliare tutti è, insomma, questo tentativo di censura, che giustamente la Rai dice ma non è vero. Non è vero, però è vero pure che la stessa Rai, anche se parliamo di Rai 3... nella zona di Reggio Emilia, praticamente ha fatto un bellissimo servizio su questo gruppo di neofascisti patrioti che facevano una manifestazione, e da un balcone qualcuno ha fatto suonare Bella Ciao, e il giornalista diceva ecco questa palese provocazione verso questa manifestazione giusta e ordinata, cioè proprio siamo arrivati alla giustificazione del neofascismo a fronte di un Bella Ciao che suona il primo maggio e praticamente diventa una provocazione. Quindi ragazzi, rendiamoci un po' conto di tutto quello che sta succedendo, perché al di là di come la pensiamo, al di là di come la vediamo, oramai si sono persi completamente gli schemi, no? Ma anche dal punto di vista di regolarità, no? Dal punto di vista della visione di quello che è il rapporto costituzionale, quello che è legale, quello che non è legale, e poi insomma queste sono un po' questioni che alla fine dovrebbero farci riflettere, no? E poi ho sentito altre polemiche, perché giustamente dice vabbè, ma il PD difende la posizione di Fedez, però come, proprio loro che lottizzano la Rai, ma che la Rai sia lottizzata da sempre non è in discussione, il fatto che oggi sia lottizzata dalla Lega forse probabilmente è la cosa che probabilmente crea poi lo scontro politico, no? Perché chiaramente i partiti non dicono mai niente così tanto per. Però al di là di tutta questa questione meramente politica, che poi alla fine può essere veramente un becerume, alla fine giustamente Fedez ha detto: ragazzi, qui il DDL Zan non si fa perché praticamente ci sono cose più importanti in Parlamento da votare, no? E queste cose più importanti, alla fine lui ha fatto un elenco di cose, tra le quali c'è questa questione del vitalizio dei Formigoni, quindi il ripristino del vitalizio dei Formigoni, che è veramente una cosa che... Boh, ragazzi, ci potrebbe far ribollire le budella proprio, se non addirittura girare i coglioni, come dicono, insomma, dalle parti mie. E comunque, detto questo, alla fine non puoi non sostenere comunque un principio, che è quello comunque del sostenere una legge o leggi che aiutano ovviamente a eliminare questo problema dell'omofobia, anche se poi alla fine nella contropolemica, nel batti ribatti, Salvini ha detto c'è già una legge, no? Giustamente lui difende ideologicamente la sua posizione e cerca di difenderla in una maniera, come posso dire, forse in questo caso più moderata, no? Nel senso, non dice proprio no, io sono contro questo o quest'altro, dice la legge già c'è. In effetti io comunque su questa cosa un pochino sono d'accordo, devo dire, poi so che vado un po' controcorrente. Le leggi in Italia non mancano, non è un problema di leggi in Italia, è un problema di cultura. Se noi continuiamo a avere questo problema di distinzione, di odio, di disprezzo, di separazione, di visione per generi, è chiaro che questi problemi ci saranno sempre. Tu puoi fare tutte le leggi che te pare, ma tanto poi se le leggi non le applichi, o se comunque non c'è una costante ricerca di un'evoluzione dal punto di vista culturale, e queste cose rimarranno sempre, cioè non... Ma questo è un principio abbastanza basico, cioè tutto sommato non è che c'è sta tanto da discutere, no? Cioè noi possiamo veramente cercare di mettere tutte le regole che ci pare, ma se non capiamo che certe questioni non dovrebbero più esistere, non dovrebbero più esistere, basta, insomma, no? Tra l'altro poi Fedez fa anche riferimento a tutti quei parlamentari della Lega o d'estrema destra che comunque hanno esposto più volte pensieri contro l'omofobia, contro la degradazione della razza, contro l'annullamento anche dell'estinzione della razza per colpa dei gay, no? Io però voglio, a me certe volte, perché forse secondo me poi è finito che noi ci siamo abituati a sta merda, ecco, diciamo così, insomma, se vogliamo proprio usare un termine in francese, ci siamo talmente abituati a tutto questo schifo che alla fine non ci rendiamo conto che sono le stesse cose che dicevano i nazisti prima di prendere il potere e che poi sono diventati concetti assunti a sistema, no? Dove nell'università si studiavano queste cose qui, cioè. Quindi, insomma, ragazzi, non ci abituiamo mai a ste stronzerie. Comunque, vabbè, voglio parlare di un'altra cosa. Una piccolissima pausa. Far away taste, waiting for Allora, questo brano si chiama Nomad, vabbè, un brano per Creative Commons, sapete, insomma, che cerchiamo sempre, insomma, di evitare il fatto che prima o poi ci verranno arrestati tutti, lo sapete, insomma, che succederà, però vabbè, chi se ne frega. Volevo anche parlare un po' del nuovo palinsesto di Runtime, magari lo faccio alla fine. E però questa canzone mi serve per introdurre anche il brano, il tema successivo, il secondo tema. Anche se però voglio anche leggere un secondo quello che avete detto in chat, relativamente a quello che scrive Al 9000, che giustamente dice: comunque il calcio in Italia è una zona franca, vive di leggi assolutamente sue e in maniera particolare. È vero, un discorso che è stato fatto anche da tutti quelli che sono gli operatori dello spettacolo, no? Cioè, nel senso, il calcio porta pubblico e dà da mangiare come industria a un grande numero di persone, ma è lo stesso numero di persone che dà da mangiare anche al, insomma, che dà lavoro, insomma, nel mondo dello spettacolo. Il problema è chiaramente, diciamo, che non è che si è effettivamente fermato il mondo dello spettacolo, sono fermati i concerti, tutti gli eventi live, ma questo in teoria vale anche per il calcio, perché non è che si va allo stadio a vedere la partita. Diciamo, è un discorso un po' complesso, però che io sostengo entrambe le parti. È vero che il calcio comunque ha delle norme tutte sue, poi se le ribalta, se le ricostruisce, poi se le aggiusta. Vedete anche tutto quello che sta succedendo con i protocolli Covid all'interno della Serie A, insomma, che alla fine sono finiti per diventare una grande buffonata e anche un pretesto politico per penalizzare quella squadra e per salvare quell'altra, perché poi alla fine anche questo succede. Ma diciamo che alla fine, insomma, ragazzi, è un'industria che purtroppo in qualche maniera anche lì doveva andare avanti. Bisogna trovare oggi, e forse bisognava farlo anche prima, il modo per sostenere tutte le industrie penalizzate, magari anche con dei sostegni, anche magari mettendo delle infrastrutture tali da poter far sì che comunque le persone potessero esprimersi e condividere le proprie opere d'arte, cercando poi alla fine anche di essere sostenuti economicamente, insomma, di non andare per stracci, che poi è la cosa forse più importante. Shuren invece ci dice il fatto che la RAI oggi è lottizzata dal Movimento 5 Stelle, dalla Lega, per quanto poi il Movimento 5 Stelle si è poi sostenuto, cioè si è poi agganciato alla Lega, però è vero pure che la lottizzazione della RAI del Movimento 5 Stelle è quella della prima era del Movimento 5 Stelle, cioè del primo governo Conte, quelli, insomma, che oggi non sapremmo neanche se potrebbero essere identificati ancora come Movimento 5 Stelle, perché praticamente, insomma, dentro al Movimento 5 Stelle c'era un sacco di gente di destra, quindi, insomma, alla fine comunque, sai, c'era una sorta di pseudocompatibilità da una parte e di accettazione per fede dall'altra, no? Quindi, sai, è un po' un discorso un po' particolare. Quello che diventerà poi il Movimento 5 Stelle lo capiremo più in là, insomma, questo sicuramente. Comunque, invece io volevo raccontarvi del fatto che ieri sera con Michela, poi magari faremo una puntata a parte, insomma, io e lei ne parleremo in maniera più approfondita, abbiamo visto Nomadland, questo film super premiato agli Oscar, e devo dire che al di là del fatto che mi è piaciuto e che comunque questo film in qualche maniera racconta anche di, cioè, è diverso da quello che mi sarei aspettato, è un film molto alla Clint Eastwood, molto intimista, racconta proprio un percorso emotivo personale di una persona, no? Quindi alla fine, ed è diverso da quello che io mi aspettavo, perché in realtà io mi aspettavo un film un po' più on the road, no? Cioè, nel senso, un qualcosa legato proprio al vivere, quindi quelli che diventano full timer, no? Quelli che poi alla fine diventano abitanti del proprio camper. Ciò nonostante, questo non è stato, ma non è stato un male di per sé, perché comunque alla fine è interessante quello che racconta. Racconta una sorta di sottocultura, di sottocomunità che c'è in America, negli Stati Uniti, e che ha anche la sua relativa importanza, che è questa, appunto, dei lavoratori nomadi, cioè di tutte quelle persone che sono non totalmente ai margini della società, ma molto ai confini della società per come è il sistema americano. E quindi hanno il loro numero di previdenza, hanno comunque i loro conti correnti, però basano praticamente la loro esistenza su una vita nomade, quindi sul vivere all'interno di van, furgoni, camper, e si aggregano magari in comunità e poi praticamente si muovono a secondo delle possibilità di lavoro che trovano stagionali. Addirittura ci sono delle aziende o delle grandi aziende in America che prevedono posti di lavoro proprio specifici per questo tipo di cose. Infatti la protagonista all'inizio, che sta lavorando ad Amazon, quando gli scade il contratto, la tizia del parcheggio dove lei tiene il camper praticamente gli dice che Amazon alla fine del contratto avrebbe pagato praticamente il parcheggio fino a giovedì, no? Fino a 2 o 3 giorni dopo praticamente, e poi lei avrebbe dovuto pagare al posto di Amazon. Quindi Amazon non soltanto assume, o Amazon con chi però non solo assume magari persone di questo tipo, ma addirittura oltre a dargli uno stipendio gli dà anche un supporto. Ma questa è un po' una cosa che è come funziona in America. In America, se tu trovi un decente posto di lavoro, che sia a lungo termine o che sia anche a corto termine, diciamo, gli stipendi sono sempre generalmente molto alti e sono legati a tutta una serie di subservizi che alla fine ti permettono appunto di vivere in una società che ha un costo generale molto più importante, no? Rispetto a quello che ci abbiamo noi qui in Italia, e quindi ovviamente è tutto correlato, tutto rapportato a questo, insomma. Ed è questa la cosa affascinante, no? Cioè vedere poi alla fine che tutte queste cose che un po' abbiamo mitizzato, che a volte vengono raccontate in maniera superficiale, diciamo che in questo film vengono raccontate in maniera più dettagliata, questa cosa di queste comunità di nomadi che per un motivo o per un altro, per scelta o anche per costrizione, non hanno più una casa, non hanno più un lavoro fisso, magari non hanno più una famiglia, ognuno con il proprio bagaglio, e come in questo caso magari ognuno con la propria sofferenza, col proprio dolore, si rinchiudono praticamente in questa realtà dove diventa una sorta di mini villaggio praticamente, un villaggio invece fatto di case, fatto di van, dove tutti si scambiano le cose fra di loro e si sostengono in qualche maniera, quindi aiutandosi uno con l'altro, creando questa sorta di comune. E il discorso interessante è proprio sul fatto che noi siamo ai margini della società del dollaro, cioè nel senso, quella società, e questa è una cosa di cui noi abbiamo parlato tante volte con Michela, ci siamo proprio trovati tante volte a confrontarci e a condividere anche questa cosa, magari anche con Walter Sbano qualche volta abbiamo parlato di questa cosa qui, e magari con i nostri amici in generale. Il fatto che tu vivi in un sistema che ti considera un mulo da sala, ma tu lavori per tutta una vita e a un certo punto arrivi forse al pensionamento, e quando sei arrivato al pensionamento sei talmente stanco o malato che non sei più in grado di recuperare quello che tu hai perso, e fai il mulo da soma. E quindi praticamente molti muoiono per strada, per malattie, molti non ci arrivano, molti arrivano stanchi o arrivano invalidi, e quindi alla fine, quando c'è il momento in cui tu vuoi dedicare il tempo a te stesso, tutto questo tempo è andato via e nessuno te lo può più ridare, perché poi alla fine il tempo che passa scappa, e che poi è alla fine un'ulteriore considerazione che è uscita fuori durante il Covid. Perché durante il Covid, in realtà, alla fine questo abbiamo fatto di considerazioni. Quando il primo lockdown siamo stati a casa, per quel tempo in cui siamo stati a casa, ci siamo resi conto che questo tempo, che in qualche maniera il Covid, per ragioni nefaste, ci ha comunque regalato, ci è piaciuto. E alla fine è questo un po' il punto di partenza. Io lo dico sempre a Michela, il problema è che bisognerebbe averci il coraggio, no? Infatti la protagonista a un certo punto si scontra contro un piccolo pezzo della sua famiglia, no? Che invece vive in quella costanza, no? Borghese, in quel sistema confinato dentro uno schema che è quello tradizionale che ci abbiamo tutti, dove a un certo punto qualcuno gli dice: ma mica tutti hanno l'opportunità di mollare tutto e andarsene, no? Perché poi è un po'... È vero che io tante volte dico sempre, a me mi piacerebbe prendere tutto, comprarmi un camper e partire per il mondo e non tornare più. Ci sono però mille considerazioni da fare. Ci sono considerazioni legate alla salute, legate alla famiglia, legate al fatto che comunque, avendo costruito qualcosa in questo sistema, abbiamo comunque compromesso la nostra libertà, no? Perché comunque abbiamo preso finanziamenti, perché comunque abbiamo degli impegni contrattuali, degli impegni economici. Tutta una serie di cose che non sono così facili da svincolare, pur volendo, insomma, a meno che non si abbia la possibilità di vendere tutto, accumulare talmente tanto capitale per poter dire: ma sai che c'è, arrivederci e grazie, lascio qualcosa ai miei figli e io me ne vado. Però ecco, è interessante, perché vedere queste comunità che in America esistono veramente e che comunque con le loro stranezze, le loro follie, con le loro paranoie sono veramente delle comunità importanti e che veramente si sostengono e che veramente hanno un precetto anche ideologico. E mi fanno ridere quando io vedo invece tutti questi full timerucci italiani che provano a scimmiottare, qui si tratta proprio di scimmiottare, no? In realtà poi alla fine, se vai a vedere, tante persone sono persone semplicemente disagiate, che non hanno la capacità di avere un'interazione sociale, no? E che alla fine si richiudono dentro un loro mondo ideologizzandolo, quando poi alla fine di ideologico non c'è assolutamente niente. Bene, questo, insomma, io vi consiglio di vedere il film, che non vi ho raccontato di che parla, ve lo guardate. È un film molto intimista, molto particolare. Non è il film dove c'è questo viaggio on the road pieno di scenari bellissimi da vedere o chissà cosa. È un film anche minimalista da un certo punto di vista, ed è forse la forza di questo film, la bellezza di questo film. Quindi guardatevelo assolutamente, e piccola pausa e poi ritorno. Allora, sono d'accordo con sia con Davide che con la 9000 per quanto riguarda Halle. Ovviamente il discorso, ritornando al discorso precedente, sicuramente c'erano tanti sistemi per poter fare in modo che il teatro non fosse chiuso, cioè nel senso non rimanessero chiusi. In realtà avrebbero potuto fare tanti spettacoli virtuali, avrebbero potuto andare in teatro e trasmetterlo nei vari canali di streaming che abbiamo, anche magari sostenendoli. E giustamente Walter dice comunque tutte quelle industrie penalizzate avrebbero potuto essere anche sostenute da fondi da quella parte dell'industria che invece non è stata penalizzata. Quindi è chiaro, ragazzi, cioè, è tutto giusto, io sono assolutamente d'accordo con voi, soprattutto perché conosco molte persone che lavorano nel mondo dello spettacolo e che veramente hanno avuto un momento di difficoltà, no? Alcuni sono tornati a fare le ripetizioni di chitarra, magari perché comunque giustamente in questo sistema bisogna mangiare, no? Non è che possiamo assolutamente dire niente. La parte agghiacciante, dice Walter, la parte agghiacciante del film di Nomadland, appunto di quello di cui stavamo parlando prima, è ovviamente il mondo del lavoro iperprecarizzato che sta arrivando anche da noi. Sì, quello è un problema che in America esiste da, non dico da sempre, ma sicuramente esiste da moltissimi decenni, sicuramente da qualche decennio, ed è un problema abbastanza annoso, anche perché poi in realtà da una parte crea fluidità, flessibilità, è quello che noi, vi ricordate, no, quando andava di moda sta cosa che in Italia, no, bisogna creare flessibilità, no? E in realtà questo porta la gente a spostarsi di stato in stato a seconda dei tipi di lavoro che si riescono a trovare relativi alle proprie competenze. Poi dovete anche avere la concezione che in America è molto importante la comprensione della competenza del singolo individuo, cioè non può essere che uno può andare a fare un'altra cosa, che la cosa è anche positiva tutto sommato, ma poi diventa un po' assolidizzata. Gli americani si sono specializzati a spingere un pulsante e devono spingere quel pulsante. Se tu gli dici di spingere l'altri tre pulsanti, loro non sono competenti per farlo. E infatti quando nel film la tizia va a chiedere posti di lavoro in un ufficio, insomma, di reclutamento, dice: io non ho ancora ben capito in cosa sei specializzata, in cosa sei competente, no? Noi facevamo sempre un gran parlare di questo mondo, no, della fluidità, però ecco, è la stessa cosa che appunto porta gli americani a spostarsi di stato in stato anche quando non si vive come nomadi, quindi cercare nuove case, avere sempre questo stress della condizione di lavoro, no? Perché chiaramente avere il rischio sempre di vivere in un contesto dove il tuo lavoro dura X mesi e basta, oppure puoi essere licenziato in qualsiasi momento, alla fine questo può comportare chiaramente diverse problematiche, no? Cioè, nel senso, anche dal punto di vista proprio della salute mentale, quindi ci si sposta di stato, qualcuno si suicida, qualcuno non ce la fa, qualcuno finisce dentro a un furgone, e questo è assolutamente vero rispetto a quello che appunto diceva Walter prima. E devo dire la verità, ragazzi, che non è facile trovare, secondo me, il sistema giusto. È chiaro che in un mondo ipercapitalistico come quello americano, dove chiaramente quel sistema funziona perché c'è quel tipo di ritmo, non è facile riuscire poi oggi a riportare un meccanismo più moderato, no? Cioè, nel senso, più adeguato, diciamo, come ci abbiamo magari noi in Europa. Però è anche vero, come diceva Walter, che questo tipo di impiego sta arrivando anche da noi, ma in realtà esiste anche da noi da diverso tempo. Io conosco tanti ragazzi, soprattutto quelli un po' più in difficoltà, magari persone che hanno qualche problemino, no? Nel senso, io per esempio conoscevo un ragazzo che aveva, diciamo, era leggermente ritardato, ecco, non so adesso il termine quale possa essere, non voglio offendere nessuno, leggermente, perché non era uno stupido, cioè era comunque uno che era un po' più lento degli altri, e però era specializzato, lui faceva l'elettricista, era bravo a fare il lavoro suo, e quindi praticamente lo trovava sempre lavoro, ma pure nella cooperativa dove ha lavorato per anni, e questi facevano il contratto ogni 6 mesi, così a lui non gli scattava la promozione, non gli scattava l'aumento, non gli scattava niente. Questo è un modo di gestire, ma poi, voglio dire, in un paese dove il lavoratore dovrebbe essere tutelato, cioè io sono veramente sconcertato, a volte mi viene veramente un po' il brivido rispetto a questo. Però dai, comunque quello che volevo dire è che questo è un bel film, potrebbe non piacere a tutti, però ieri mentre guardavo il film io mi sono reso conto del perché oggi, cioè una volta c'erano i film d'avventura, i film d'azione, c'erano i film un po' più impegnati, no? Cioè il cinema, perché Nomadland, ragazzi, è il cinema così come dovrebbe essere, cioè una forma di storytelling e di espressione, no? Di anche profondo, no? Anche da interpretare, anche da cercare di capire. E invece oggi c'è uno sbilanciamento totale al 90-80% di rumore e un 10% che tra film buoni e film decenti, insomma, diciamo così. E alla fine io mi sono reso anche conto del perché mentre tu guardi questo film, nei silenzi di questo film, tu rifletti La gente oggi non vuole riflettere, non gliene frega un cazzo, non si vanno a mettere nel... preferiscono le cose che strillano, le cose che fanno rumore, il politico che strilla, il film che strilla, la canzone che strilla, tutto strilla, strilla tutto, perché mai soffermarsi un secondo, mai avere il tempo di mettersi lì e riflettere su se stessi e sul proprio dolore, perché ognuno di noi si porta dentro un bagaglio, una sofferenza, un qualcosa, no? E questo, ragazzi, è importante, cioè non è da sottovalutare. Comunque, vabbè, ragazzi, io direi che volevo finire dicendo che da domani parte il nuovo palinsesto di Runtime Radio, che si baserà su 4 trasmissioni principali per ora, che avranno praticamente una pubblicazione giornaliera su 2 fasce orarie, e poi domani, insomma, pubblicherò bene come sarà il palinsesto, ed è una cosa abbastanza interessante. Più la sera poi ci saranno quelle trasmissioni che magari hanno meno frequenza di pubblicazione, ma che comunque hanno fatto sempre la storia di Runtime Radio, quindi avrete comunque sempre modo di ascoltare trasmissioni dal passato fino ad arrivare ai giorni, giorni d'oggi. E poi vabbè, ci sono ovviamente quelle che già erano live, che continueranno ad essere live, quindi vabbè, adesso è un po' complicato riuscire a spiegarvi come sarà il palinsesto, ma domani mattina lo pubblicherò, e poi ci sarà un Google Calendar ufficiale, consultabile da tutti, e in realtà ci sarà presto anche il pulsante sul menu su in alto, palinsesto di Runtime Radio, dove ci saranno praticamente tutto lo schema grafico della calendarizzazione, e cliccando sui vari show ovviamente anche conoscere lo show, conoscere l'autore, e poi conseguentemente anche conoscere il podcast da andare a scaricare qualora vi siete persi la puntata, perché magari non l'avete ascoltata on air, perché comunque ricordatevi sempre che il nostro core resta sempre e soltanto il podcast. La web radio è un supporto con il quale noi stiamo piano piano facendo qualcos'altro, che è la cosa che ci interessa di più. Però tra queste ovviamente ci sarà anche una novità che ve la faccio ascoltare subito. Runtime Radio presenta Ich bin ein Berliner. Houston, we've had a problem. Delenda Cartago. Le forze armate tedesche si sono arrese agli angloamericani. La guerra è finita. Un programma di storia e cultura a cura di Roberto Tomaiuolo. Io sono sempre stato al corrente della natura non regolare dei finanziamenti ai partiti e al mio partito. L'ho cominciato a capire quando portavo i pantaloni alla Zuava. Tornando a casa troverete i bambini. Date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Prodotto da Simone Pizzi. Ebbene ragazzi, insomma, vedete che ci sono anche tante novità. Nasce Quando Eravamo Futuro, che è il podcast di storia, anzi no, di società e cultura degli anni 70 e 80, con me, Carlo Sant'Agostino, Davide Gatti e Roberto Tomaiuolo, e di conseguenza nasce anche Delenda Cartago, che è il prossimo podcast imminente, di prossima pubblicazione di Runtime Radio, a cura di Roberto Tomaiuolo, ideato e condotto da Roberto Tomaiuolo, e ovviamente gestito, insomma, da noi di Runtime Radio. È un podcast sul quale non bisogna essere d'accordo o non d'accordo, è comunque la cronaca della storia contemporanea. Poi chiaramente potrebbero esserci delle provocazioni sulle quali poi commenteremo, discuteremo, ed sarà questa la cosa bella. Il programma di norma non supererà i 25 minuti, tranne che ovviamente eventuali speciali, interviste o live particolari, dove ovviamente si affronteranno dei temi, magari anche rispondendo alle lettere o alle critiche o ai commenti del pubblico, insomma. Quindi poi Roberto, insomma, ci darà modo, ci istruirà su come questo programma andrà avanti, ma è sicuramente un programma che mi auguro voi ascoltiate, perché ci tengo moltissimo. Ci stiamo lavorando e siamo molto soddisfatti, e come sapete ogni linea editoriale all'interno di Runtime Radio è indipendente e assolutamente immutabile, senza nessun intervento da parte ovviamente di chi gestisce Runtime Radio, in questo caso io, ma non perché io so il padrone di Runtime Radio, semplicemente perché comunque da sempre coordino questi progetti insieme a tutti gli altri, e quindi insomma mi fa piacere sapere che la gente ha capito questa cosa, che comunque il Runtime Radio, al di là di un'idea principale, generale, che comunque la maggior parte di noi ha, poi alla fine si inserisce tutto con il massimo dell'indipendenza, tranne ovviamente quando chiaramente si va contro il minimo indispensabile, quello che dico io, insomma, no, perché cioè, è chiaro che ci sono sempre delle cose secondo me che non vanno toccate, però in generale stiamo parlando proprio di cose di massimi sistemi. Detto questo, quindi ricordatevi Delenda Cartago, ragazzi, c'ho l'ictus oggi. Prossimamente vi faremo sapere anche con un trailer che già è stato fatto, ma poi ne faremo uno insomma dove ci sarà proprio la data di pubblicazione di quando inizierà questo podcast, e probabilmente una sera insomma faremo una sorta di puntata speciale per il primo episodio, una sorta di come posso dire, live, dove presenteremo, faremo un intro e poi trasmetteremo il programma e poi faremo un outro, così giusto per fare una sorta di serata di gala per l'inaugurazione di questo podcast. Poi è tutto da organizzare, tutto da dire, insomma. Delenda Cartago, ragazzi, mi raccomando. Voi poi lo so che maledetti collaboratori di Runtime Radio fate i nomi dei podcast per farmi impicciare la lingua e farmi venire l'ictus, però insomma, detto questo, buongiorno un cazzo ragazzi, oggi finisce qui, spero vi sia piaciuto questo programma, questa puntata, insomma poi troveremo un modo per trovare una collocazione anche in questo programma, perché io la faccio la mattina molto presto, insomma gli devo trovare un posto, questo programma merita un posto. Detto questo, ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto in chat. Purtroppo, ragazzi, io non ce la faccio a leggere mentre che parlo, sono limitato da questo punto di vista, però vi risponderò adesso, insomma, durante la chiusura della trasmissione. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata qui su Runtime Radio.